Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ode visioni e commozioni dal cielo e dal mare. Ode visioni e commozioni dal cielo e dal mare. O voi che avete i morti sepolti sotto l'erba verde e che in piedi, in mezzo ai fiori, potete dire qui, qui giace il mio caro, voi non sapete che desolazione, che vuoto amaro in quelle lapidi orlate di nero che non ricoprono cenere. Io ero uno di quell'equipaggio e le mie grida si levarono con quelle degli altri e il mio giuramento si confuse con loro. L'odio inestinguibile si fece anche il mio. Venne dall'acqua, venne dal sale, la penitenza, dall'amaro del mare. Il comandante avanza e niente si può fare, vuole una morte, la vuole affrontare. E lì l'attendeva, dove il sole cala, cala e non muore, e l'acqua non lo lava, e il demone lo duole. Banchi d'acqua stregati di olio e di petrolio. Il vento non alzava e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio. Avanzavamo lenti, senza ammutinamenti. Il comandante è pazzo e avanza nel peccato, e il demone che è suo, adesso vuole mio, e brinda con il sangue, all'ode ci convince, che se la sua barca che vince, deve essere la mia. E gli occhi non videro la luce, non videro la messa, che altri non l'avessi. E il cielo fece nero, urlò la nube al cielo, e s'affamò d'abisso che tutti ci prendesse. È un enorme paradosso. Cerchiamo di bloccare un flusso che riteniamo legittimo. Ci sconvolgiamo quando succedono catastrofi del genere. Invochiamo perdono, parliamo di stragi, ecatombe, diritti, libertà. Ci si riempiono gli occhi di lacrime e le labbra di belle parole. Ma forse non siamo innocenti quanto crediamo. Non offriamo ai migranti, o per meglio dire, non offriamo a milioni, probabilmente miliardi di persone, la possibilità di viaggiare. Cerchiamo di bloccarli nel loro paese in guerra, senza un futuro. Se scappano, addirittura, cerchiamo di ricacciarli. Non gli diamo mezzi legali per raggiungere un futuro, una serenità. Li costringiamo ad affidarsi ai trafficanti, a pigiarsi su barconi fatiscenti. Riduciamo il salvataggio al minimo. Massimo 30 miglia dalle nostre coste. E poi ci stupiamo che muoiano in massa. Ci indigniamo, ci incazziamo. Ma la loro alternativa qual era? Forse morire nel proprio paese. Forse il fastidio è che vengano qui, vicino a noi, a morire. Così vicino che non si può più far finta di niente. E chi se ne frega? 700 in meno. Il peccato è che ci sono dei superstiti. Mangime per pesci. Speriamo tutti musulmani. Non me ne frega un cazzo. E questi non siamo noi che siamo impazzite e abbiamo il timore che adesso voi pensiate molto male di noi. Comunque non erano commenti nostri, ovviamente, ma i commenti scritti su Facebook dalle persone sulla morte dei migranti. Quindi se Marta, che è qui con noi, pensa che sia un dramma addirittura il fatto di indignarsi solo nei momenti in cui ci sono le cosiddette stragi, i disastri, le catastrofi, e non in tutti gli altri momenti, ci sono tante persone che invece risultano particolarmente felici di quello che è accaduto e sentono di poterlo dimostrare al mondo, di poterlo dire anche col loro vero nome su Facebook, come se fossero nel loro salotto di casa. Hanno il coraggio di dire cose che non dovrebbero neanche pensare, se fossero esseri umani che hanno un minimo di coscienza di sé e degli altri. E invece pare che non abbiano nessuna remora a farsi vedere anche con il loro nome. Purtroppo i nomi sono oscurati sul link da cui abbiamo trovato i commenti. Ho letto un articolo in cui c'erano proprio i nomi. Se avessi un attimo di tempo vorrei sentire queste persone. Mi piacerebbe proprio sapere cosa farebbero se fossero nate dall'altra parte del Mediterraneo. Sì, forse ancora più pauroso del Mediterraneo è il mare dell'ignoranza che ci circonda tutti. Ma comunque salvo tutti, siamo sempre noi, i ragazzi del Presidio Universitario di Libera, indignati ma sempre presenti al nostro posto, con una nuova puntata. Oggi vi vogliamo parlare di resistenza, visto che siamo vicini al 25 aprile, ma prima rilassiamoci un attimo, no? Che cosa ascoltiamo, Ele? Volevo mandare una canzone, sempre in tema con i soggettoni dei commenti di cui si parlava prima, Super Stupid dei Funkadelics. Bentornati in studio, presi dall'incipit di prima non ci siamo neanche presentati. Allora, io sono Marta, di fianco a me c'è Eleonora. E io sono Valentina. Meno male che c'è la Vale che ci tira sul morale. La puntata di oggi, comunque, a parte l'incipit, è incentrata sulla resistenza, visto che siamo alle porte del 25 aprile, è particolarmente importante e non vi parliamo della storia che dovreste aver studiato già per i cazzi vostri. Se non l'avete fatto, andate a ripassarla da soli, perché qua non siamo le maestre. Vogliamo fare un focus sulla resistenza a Bologna e soprattutto sui luoghi della resistenza. Visto che abbiamo con noi l'esperta del settore, Valentina, che si è fatta una grandissima ricerca, un sacco di fogli, materiale inedita questa preparazione per una puntata radio. Adesso Vale, spiegaci un po' quello che hai scoperto su Bologna. Allora, ho scoperto un sacco di cose in realtà navigando sul web. Allora, prima è che in realtà Bologna, come molte città dell'Emilia Romagna, ha più di 2000 toponimi dedicati alla resistenza, cioè luoghi, strade, piazze, eccetera, dedicati appunto ai partigiani o eventi particolari legati appunto alla liberazione. Molti di questi sono sorti tra la fine degli anni 40 e gli anni 60 e la loro intitolazione ebbe un inizio spontaneo con la posa da parte della cittadinanza di cartelli recanti i nomi delle figure della resistenza, e spesso anche in luoghi legati alla uccisione di queste figure da parte sia dei fascisti che dei nazisti. E sono molto diffusi, ad esempio se ne possono trovare tantissimi nei quartieri di Saragozza, San Vitale, ma anche sono presenti anche a Borgo Panigale, a Savena, San Donato, Santo Stefano, eccetera. E se uno, appunto, vi dicevo, io ho scoperto tantissime cose oggi pomeriggio, quindi se qualcuno di voi ha la pazienza di andare un attimo a cercarseli, e ne trova di tantissimi anche in posti in cui passa normalmente tutti i giorni, non ci fa mai caso. Io però... Dov'è che si può scoprire dove sono questi luoghi? Bisogna telefonare a Valentina, adesso vi lascio il suo recapito di telefono. Venite a casa nostra, visto che siamo coinquiline, suonate, io vi mando da lei, tutto a posto. E io vi do la cartina con tutti i posti segnati. No, comunque ce ne sono, a parte gli scherzi, ce ne sono davvero di tantissimi. Ad esempio, uno abbastanza famoso è quello legato alla figura di Giovanni Casoni, che fu assassinato in via Begatto nei pressi della sua appunto abitazione il 14 novembre del 44, e oggi, anzi dal 1955, è stata intitolata una via in suo onore che collega appunto via Ferrarese a via Stalingrado. Ma uno appunto di questi siti che probabilmente è sotto agli occhi di tutti per la maggior parte dei bolognesi è quello appunto in piazza dei Nettuno, appunto il sacrario dei caduti dei partigiani, che ha una storia molto interessante, perché è collocato in un luogo dove probabilmente sorse spontaneamente, grazie alla volontà dei cittadini, nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, dove appunto appoggiarono al muro appunto di Palazzo d'Accursio tutta una serie di fiori e immagini dei loro parenti caduti durante la resistenza. E questo luogo non fu scelto, diciamo, casualmente, perché in quell'angolo, appunto in piazza del Nettuno, i fascisti spesso eseguivano le loro fucilazioni pubbliche e esponevano appunto il corpo dei nemici per dimostrare appunto la loro forza e la loro superiorità. Quindi è anche un luogo storicamente piuttosto truce, che oggi è diventato un luogo di memoria. Comunque la Vale è un po' distratta, prima Marta aveva fatto una domanda ma non l'ha cagata neanche per un po', perché Vale continua il suo discorso. Detto ciò, scusate, rispondo io. Non venite a casa nostra se volete sapere i luoghi della resistenza di Bologna. Lei era un po' preoccupata da questo. Sì, non era un'offerta veritiera la mia. Per cui vi invito invece a scaricarvi un'app, perché siamo molto tecnologici, che si chiama Progetto Resistenza Mappe, nel senso che c'è l'app in mezzo a mappe, non so se avete capito il gioco di parole, sviluppato dall'Istituto Parri di Bologna, e quindi potete scaricarvi questa cosa, questa malvagità tecnologica, per capire dove sono i passi della resistenza. Detto ciò, direi che è il momento di lanciare una canzone. Vale, che canzone abbiamo ascoltato tutta la giornata? Oggi abbiamo ascoltato una canzone delle mie parti, di Reggio Emilia, appunto I Morti di Reggio Emilia, e a loro è stata appunto dedicata questa bellissima canzone che vi invito ad ascoltare. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia. Stanchi, o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto, è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quel che abbiamo al fianco adesso, è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera. Bentornati in studio, questa puntata è dedicata alla Resistenza. La Vale ci stava parlando prima dei siti che a Bologna sono dedicati appunto alla Resistenza, e tra le sue ricerche ci diceva che solo dieci sono dedicati alle donne, che comunque hanno avuto una parte molto importante nella Resistenza. E visto che qua siamo solo tre donne, pensavo di approfondire la discussione, e quindi chiedo a te, Vale, che cosa hai letto, che cosa vuoi raccontarci su questo. Sì, infatti hai ragione, sono pochissimi i siti dedicati appunto alle donne, e uno fa eccezione, appunto un sito situato nel bellissimo parco di Villa Spada, che appunto è un monumento a 128 partigiane, realizzato nel 1975 dallo studio di Cittanova, uno studio di architetti con la collaborazione di scuole, e le scuole di Bologna e l'associazione Le Fabbriche della Zona. E questo appunto monumento è composto da 128 mattoni, ognuno delle quali appunto riporta un nome della partigiana caduta durante le battaglie. E infatti, come dicevo, le donne hanno avuto un ruolo, per non dire quasi decisivo, per le sorti della... Ok, no, decisivo forse esagerato, però facciamo comunque una rivisitazione della resistenza in chiave esclusivamente femminile. E no, è stato un pomeriggio sul sito delle donne della resistenza. No, però è altrettanto che è vero che per quanto loro non imbracciassero effettivamente il fucile, le donne avrebbero un ruolo fondamentale per la battaglia partigiana, tant'è vero che avevano un ruolo sia di staffette famoso, ma anche di protezione degli uomini partigiani, di portalettere, e insomma ebbero ruoli piuttosto decisivi, tant'è vero che lo stesso Ferruccio Parri disse che le donne furono la resistenza dei resistenti. Tanto fu il loro ruolo decisivo. Ma queste donne come erano organizzate? Che ruoli avevano? Ah beh, allora, senza farvi la lezione di storia, così per farvela breve, però vi do soltanto un semplice dato storico, e cioè, segnatevelo tutti, l'8 settembre del 1943 è una data importante perché appunto segna la nascita dei gruppi di difesa della donna. Cioè erano appunto tutta una serie di donne anche di diverse estrazioni sociali, operaie, casalinghe, contadine, studentesse, insegnanti, che si misero insieme per dare appunto assistenza, sia dall'assistenza appunto ai partigiani, ma anche per organizzazione di corsi di preparazione tecnica e politica, formavano reti, entravano in clandestinità, facevano le staffette, insomma crearono tutta una rete che, come dicevo, risultò anche determinante, o comunque diede un grande contributo per le sorti della guerra, e che il cui appunto riconoscimento è stato soltanto negli anni più recenti, ecco. In proposito, volevo aggiungervi che in occasione quest'anno, in particolare il 25 aprile del 2015, cioè in occasione del 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione, è stato promosso qui a Bologna da parte appunto dell'ANPI e del Dipartimento di Storia delle Culture della Civiltà dell'Ateneo di Bolognese un bellissimo progetto sulle donne della Resistenza, intitolato appunto Le donne della Resistenza bolognese, di cui appunto una parte fondamentale è un bellissimo sito su cui mi sono documentata oggi, www.ledonnedellaresistenza.it, in cui appunto elenca tutta una serie di siti in cui le donne partigiane bolognesi usavano o ritrovarsi o luoghi appunto di protezione, non so, c'erano le case delle partigiane dove hanno nascosto e dato protezione ad alcuni partigiani o alcuni comandanti, o di teatri appunto di protesta o di scioperi che loro organizzarono, che risulta secondo me molto interessante e che fa vedere con un occhio diverso la nostra città. Va bene ragazzi, quindi avete capito, la resistenza l'hanno fatta le donne, gli uomini non c'entravano un cazzo, senza di noi non avrebbero fatto una sega. Bentornati in studio, eccoci arrivati all'attesissimo momento Buffier, e questa volta sarà un po' un'elencazione di eventi, cose da fare per il 25 aprile per non rimanere a casa, non fare niente. Voi ragazze cosa farete? Allora, per quanto mi riguarda, la giornata del 25 io penso che la passerò al fratello, che è pieno di iniziative, ben che suonano, letture. Tra l'altro ci sarà anche il coro resistente, penso alle 11 in piazza San Francesco, se non mi sbaglio. Andate, come che canterà bellissime canzoni come quella che vi abbiamo messa prima, noi saremo lì a cantare tutte insieme. In prima fila, probabilmente. Suonatissime. Io invece sono indecisa se andare o al Pratello o anche al classico Montesole, cioè con bella vista, luogo colmo di storia e passeggiate itineranti. Se non avessi da studiare non avrei dubbi. E invece alle 16 in piazza Nettuno c'è anche il ritrovo dei danzatori bolognesi, e quindi si faranno balli e si ballerà fino allo sfinimento, credo. Oppure se avete voglia di fare una gita fuori porta, c'è sempre Casa Cervi, nelle zone mie della valle, verso Sant'Ilario. Vabbè, sarà un po' difficile trovare il posto perché non è immediato, però c'è sempre una festa molto bella. Sì, e quest'anno c'è davvero un bel programma, quindi vi invito almeno a darci un occhio.